24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. E questa è la canzone del complesso del primo maggio, che in genere si esibisce sotto il sole di pomeriggio, con la chitarra acustica scordata, calante, che la gente che balla a torso nudo neanche la sente. Corre un guaglione dentro un centro sociale, corre un poliziotto che lo vuole accappare. Meno male che c'erano loro, meno male che c'erano loro a ravvivare questa, come definirla, questa roba del concertone. Egli e le storie tese, meno male, io lo dico subito, ho visto 0 secondi. Zero secondi del concertone, e vabbè, è così, è così. Non lo so se l'ha visto Vincino, buongiorno Vincino. Buongiorno. Hai visto il concertone? Assolutamente no. Oh, no, zero. Totalmente proprio due cose questo qua, quel pezzettino qua che hai fatto, che Elio, hai raccontato tu. Elio. E quello là della comunione. La comunione. La comunione. A mangiare preservativi di plastica, che poi fanno male questi qua. No, ma tra poco lo facciamo sentire. Non so. Paolo Del Debbio l'ha visto il concertone, buongiorno. No, non l'ho visto, ma è un disastro. Solo egli e le storie tese. Ha sbagliato ospiti. No, vabbè, ma perché mica devo parlare del primo maggio? Un pochino adesso dovevo parlarne perché è successa una roba, le solite polemiche. Cosa non si fa per far parlare del concertone del primo maggio, che ormai non guardano forse manco quelli che stanno in piazza lì. Comunque, possiamo aprire il Parlamento? Apriamo il nostro Parlamento, il nostro bar, che poi c'è Vincino tutto... Tutto preoccupato, ieri Vincino ci ha chiamato, è tutto preoccupato, perché Paolo Del Debbio, sai perché è preoccupato Vincino? No, e ha detto che facciamo con la Minetti adesso? Perché lascia la politica, eh? Con la Minetti che ci offre il caffè tutte le mattine, che dice mi sveglio le mattine, non so cosa fare, la politica mi fa schifo, sono disperata, forse torno al mio vecchio lavoro di igienista dentale e... Addirittura. Vincino, che dobbiamo fare? Peraltro, lei aveva anche le competenze per fare il ministro della sanità, e invece no, gliel'hanno data un'altra che non ne sa niente, come dire, no, questo è l'assurdo di questa logica qua. Vabbè, no? Comunque è un po' ingrata, perché dice, mi sveglio la mattina, non so che fare, qui da mesi che ci offre il caffè a tutti quanti, e lo reputa evidentemente un lavoro di serie C. Ma è dispendioso anche poi. Ma basta mettere nelle pezze d'appoggio lì della regione Lombardia, insomma, poi paga. Ma ora le controlla, paga pantaloni. Che ora le controlla. Oh, allora, Vincino, bisogna chiarire questa cosa. Paolo Del Debbio, ogni settimana che lo chiamiamo, la settimana dopo nel frattempo ha acquisito nuove cariche. Allora, Paolo Del Debbio conduceva Quinta Colonna su Rete 4 alla sera, adesso, il lunedì, adesso conduce Quinta Colonna quotidiano dalle 20:30 a 21, e poi continua il lunedì. Adesso, Vincino, nel frattempo è diventato responsabile di informazione del TG4, adesso ce lo troviamo sottosegretario tra due giorni. Lui non è già stato sottosegretario? No, non credo. Chi? Del Debbio? Sì, non offendiamo, Vincino. No, non offendiamo, non sono mai stato nulla io. Dai, mai nulla, no, allora mi sbaglio io, scusa, hai ragione. Non sono neanche responsabile dell'informazione su Rete 4, su Italia Oggi ieri. È un errore. Hanno sbagliato, porca miseria, pure le cariche così a caso. No, ce lo troviamo sottosegretario alla difesa. Non mi trovate nulla, lasciatemi stare. No, non lo troviamo nulla. Allora, è arrivato, così poi derubrichiamo la questione del primo maggio. Vabbè, Del Debbio, la polemica del preservativo Ostia, ne ha sentito parlare? No, l'ho visto stamattina sul Corriere Online. Ecco, appunto. La band, la famosa band, quella che... Ho scritto Condom in diretta. Sì, la famosa band Management del Dolore Post-Operatorio, che uno ascolta o gli U2 o quelli, più o meno. Una mangia plastica, poi sta male. Sì. Prima di cantare il brano Porno Bisogno, che entrerà come volare nella storia della musica. Il cantante si è esibito esponendo un preservativo e dicendo queste parole. Teneva come il prete tiene l'ostia al momento, e dicendo così: questo è il budello che uso io, che toglie le malattie dal mondo. Prendete e usatene tutti. Eccole. Fate questo, sentite a me. Del Debbio, ovviamente puoi immaginare le polemiche, le cose. A Piazza San Giovanni, dove c'è il vescovo di Roma. Mamma mia, ragazzi. Mi sembra una coglionata. Ecco. Abbastanza. Sì. Ecco, so. Il linguaggio di mattina. La coglionata di solito chi la fa? Chi la fa? Il cantante del management del dolore post-operatorio. Che serve fare questa roba? Ma offende molte persone. Offende, offende milioni di persone. Offende solamente milioni di fedeli in tutto il mondo. Però per fa parlare. Fare cosa, cioè. Per far parlare. Così tutti. A parte la storia del primo maggio. Così tutti adesso a comprare CD della band management del dolore post-operatorio. Boom di vendite. CD, nessuno ha comprato il preservativo. Infatti. No, è una cosa schifosa. Sì, abbastanza. Non l'avevo vista anch'io in diretta, ma oggi sì, l'ho vista sui siti. Oddio, poi non esageriamo. Ma ho visto che la Camusso ha detto che comunque è da rivedere questa cosa, no? Da rivedere il concertone, sì. Sì, che ormai è una cosa passata, insomma. Sì. Che non è che deve rivederlo perché ieri non l'ha visto, perché sennò quella sarebbe una sciagura. Veramente, la cosa peggiore era questa festa dedicata a Preiti, che come è stata in realtà. Sì, no? C'è stato. Questa ecco, è terribile. C'è questo stato. È molto peggio del preservativo, ma è certo. Questa cosa qua. Sì, no, ma certo. Non c'è dubbio. A Torino. Il preservativo è un'offesa inutile. No, questa è un'offesa gratuita e vergognosa. Sì, ma a Preiti è pesante. Ah, certo, invece, a Torino io ho visto, c'erano due ragazze sui 20-25 anni che sfilavano sorridenti, tenendo questo striscione in cui c'era il primo maggio e per voi c'era la foto di Preiti. Ma che, Vincino, che gli devi dire a dei ragazzi che hanno la segatura in testa? È tempo perso, secondo me, uno o no? Sì, Vincino. No, ma devo dire che anche quelli che in parte lo giustificano, lo giustificano. Come dire, cioè quello è uno che ha un tentato omicidio, come uno che va, spara un carabiniere, poi anche questa cosa qua ogni giorno tutti, poi si voleva suicidare, ma perché non lo so, che, sì, cioè, no, si voleva suicidare, ma guarda, spara dei carabinieri dritto, aveva tante persone, aveva il palazzo in tolce, sì, Del Debbio dice, sono apparse le scritte da qualche parte, come Preiti. Dire, dedichiamo la festa del mare ai due daghestani là, quei poveretti che ce l'avevano contro il sistema politico americano, ma è una vergogna, però insomma c'è sempre spazio, devo dire, non è che si può, Del Debbio, non è che possiamo ridurre poi i cortei, la festa del primo maggio a quattro deficienti. Ma per carità, sono in questi, è come nelle foto della prima comunione, no? C'è sempre quello che si sporge e fa le corna, no? Cioè. Sì. Oddio, la foto. Facciamo la festa del 2 maggio, guarda, quella del primo ci è venuta male. Sì, allora, io so già cosa vuol dire Milan, lo so già. Poi Del Debbio, quello vicino, quello che fa le corna nelle foto un po' istituzionali, è come dire. Lo sapevo, Milan, ero offerta come una palla. Un assist clamoroso di Del Debbio, vabbè, ce l'abbiamo avuto. Milan, comunque, ce l'abbiamo ancora. Comunque, allora, io dico una cosa, io voglio farvi ascoltare quello che Laura Boldrini, presidente della Camera, ha detto. Secondo me, magari sbaglio, è sbagliato anche questo tipo di giustificazione. Laura Boldrini ha detto: quando non c'è lavoro c'è la disperazione, questo è vero, solo che poi ha aggiunto: la disperazione poi porta a situazioni come rischiose, come quelle di Preiti. Secondo me è un discorso un po' pericoloso. Comunque sentiamo Laura Boldrini. Il lavoro è l'emergenza numero uno, è la madre di tutte le emergenze in questo paese. Bisogna dare delle risposte concrete alle persone, a volte c'è disperazione e le persone per disperazione arrivano a fare qualsiasi cosa. Lo abbiamo visto purtroppo anche di recente, non vorremmo più rivederlo, non vorremmo più vedere. Insomma, la disperazione porta le cose. Allora la questione è questa. È secondo me pericolosa, cioè pensare che la disperazione si chiama tecnicamente giustificazionismo. Addirittura. Ritardò anche un po' le indagini sulle BR, non so se ve lo ricordate. Adesso la Boldrini no. Non è che... no, però il concetto è un po' è scivoloso effettivamente. È lo stesso, perché se te dici che la disperazione provoca gesti, non è la disperazione, è la delinquenza che provoca quei gesti lì. Che c'entra? Allora, se cominci così, è finita. Siccome questi giorni in televisione è tutto, io ne ho viste mille, dico, vabbè, ma insomma, se poi non si mette mano alla cosa, eccetera, allora poi il poveraccio ruba. Io mi ricordo a Milano, quando tutta la critica sulla microcriminalità perché veniva dalle periferie, poi invece sparavano in centro, diceva là quelli lì chi sono, si scoprì che erano figli di papà quelli che facevano queste cose, siccome le mamme davanti a San Vittore, no? Sì, tutte sì, come no. Che c'entra? Non so, Vincino, è un po' rischioso quello che... Ma poi siamo a due Boldrini. Giorni, a tre giorni dal fatto. Ma l'ha detto anche subito, l'ha detto anche il giorno, il giorno del fatto, su Twitter. Ma la pensa un po' così. La dai, pensa la così, la pensa cioè, così. Noi l'unica cosa che abbiamo è una mano che spara dritto a un carabiniere. No, e di tutto questo qua, ancora, come dire, facciamogli il processo e poi dopo magari... Dice, poveretto, era un povero disgraziato. Secondo me, come dire, è troppo presto per dire tutte queste cose. No, ma voglio dire, è molto grave dire queste cose. Ma anche perché lui ha fatto l'interrogatorio, ha detto ero disperato, ho perso tutto, i figli, il gioco d'azzardo. E chi se ne, cioè, non chi se ne frega, ma chi se ne frega. Quindi questo, allora uno dice, siccome uno è disperato, prendo una pistola e sparo in piazza al primo libero arbitrio, no? Caro Mita, sono 8 milioni in Italia, quindi che, appunto, dovrebbe esserci la guerra civile, insomma. Uno non è che, no, sì, anche secondo me è un po' non pericoloso. Ci sono tante pistole, manco per tutti, diciamo, no? Non siamo in America, dice Vincino. Ah, sì, dove quel bambino di 5 anni ha fatto la sorellina. No, dai, Vincino, è una tragedia quella. È terribile. Col fucilino per i bambini, certo, perché in America ci sono i fucilini per bambini. Eh sì. È successo questo. Sì, però scusate, a un bambino di 5 anni in America è successo questo, un bambino di 5 anni ha sparato col fucile che i genitori gli hanno regalato. Ha sparato alla sorellina di 2 anni, ammazzandola. Cioè, nella pubblicità c'è il fucile per bambini. Ma io prendo quei genitori, che gli devi fare quei genitori? Cioè, come fai? La colpa è loro, devi arrestare uno dei due che ha fatto la cosa, l'altro lo lasci per... Vabbè. Ma anche la fabbrica che fa la pubblicità e che fabbrica i fucili per bambini. Sì, certo, ma lì c'è l'emendamento, il diritto alle armi. Se licenzi operai, ma quelli licenzi... Hai capito. C'era una bruttaria in Italia. Quello dice del preservativo, l'altra dice insomma. Sì, tra l'altro del Debbio ci è arrivato dei messaggi. Uno ci ha scritto: siete dei vecchi, questa cosa del preservativo addirittura schifosa. Ma insomma, siete vecchi, ma non è che ha inneggiato al preservativo che va bene. Insomma, ha fatto finta di dirla messo al preservativo. Cioè, dai, con l'ostia, ma è una cosa alla quale milioni di persone credono. Cioè, non è che possiamo prendere tutto e buttarlo così in vacca. Vabbè. 24 mattino. Glielo diamo un posticino a questo poverino sul governo? Troviamo un buco? Non è che deve sempre rintanarsi nell'ospedale per non andare davanti ai giudici? Troviamo un posticino per questo poverino? Allora Milan, vogliamo chiudere l'inuteca? Bene, chiudiamola però ai veri bisognosi, quelli che hanno solo una casa e non pagano più di 500 euro e che rimangono a pagare i soli ricastri, è chiaro? Chiara Levilli, vari Berlusconi, eccetera, quelli che pagano pure, per loro l'inuteca è sempre aperta, anzi spalancata. Io approfitto per fare un appello a Silvio. Silvio, non cominciare a dire se no fai cadere il governo. Attenzione, chi troppo vuole nulla stringe, non tirar troppo la corda. Hai detto che rendevi l'IMU se governavi tu. Ora sei insieme a Enrico Letta, ti fa tutto il possibile. E allora, come hai anche detto, mettici il tuo denaro se proprio insisti. mi fa piacere che il senatore sia stato cacciato dal Movimento 5 Stelle, è il primo segno di una valanga, si disintegrerà il gruppo delle 5 Stelle, è solo questione di tempo, ciao. Milan, un dubbio mi tormenta notte e giorno. Nel 1800 c'era il dazio sulla neve nevera, nel 1900 c'era l'imposta sui cani, oggi c'è l'IMU, salvezza dell'Italia. Sono escluse dall'IMU anche i luoghi di culto e tutte le relative 25 pertinenze. E pongo una domanda, ma le migliaia e migliaia di canoniche e anche gli episcopi con le loro pertinenze pagano l'IMU? Qualcuno può sciogliermi questo angoscioso dubbio? Esistono anche le pertinenze delle pertinenze. Il nostro straordinario amico napoletano credo ogni tanto ci manda questi dubbi, non lo so, no non lo pagano l'IMU le chiese, ecco, le chiese no. Oh, qua Paolo Del Debbio e Vincino ci scrivono ma insomma siete inascoltabili, siete snob, e poi sulla questione di Preiti ha ragione, è inutile cercare di mascherare la realtà, e poi non si giustifica ma è spiegare, si vuole spiegare la disperazione di Preiti, è in dubbio, e questo ma infatti lo spiega. Ma no, ma voglio dire, ma nessuno mette in dubbio la disperazione di quest'uomo, uno che arriva a fare un gesto del genere, è disperato. Ma ancora non sappiamo, può essere anche uno pagato per fare questo, non sappiamo niente. Eccolo lì, Vinci. Ma no, che cosa c'è? Come, noi siamo un'Italia di cui ancora non sappiamo le bombe di Milano del 60, delle cose, no. E come dire, e questa tre giorni dopo non sappiamo nulla. Sono, lì, cose insomma. Strane. Sì, c'è il cellulare intestato allo straniero. C'è il cellulare quello lì, c'è la pistola con la cosa brasa, l'abbiamo detto tante volte. Ma non è apposta, come cosa... non sappiamo niente. Che cosa, chi giustifichiamo? La Liga HK? No, giustifichiamo la Liga HK come No, vabbè. Comunque, Enrico Letta, ma io non ho capito, Vincino, ti piace Enrico Letta? A me devo dirti, in realtà non mi è mai piaciuto, no? Come proprio in quanto giovane democristiano, perché io non ho mai sopportato i giovani democristiani, ma manco dei giovani. I vecchi democristiani invece sì. I vecchi democristiani alla fine avevano saggezza, anche perché poi loro avevano quei portaborse che li facevano tutto, e quindi loro arrivavano in vecchiaia nobili in un certo senso, sì, no? senza aver mai fatto io niente. Io ho una statua in marmo di Andreotti dentro quella che il male 30 anni fa mise al pincio, no? La conservo io proprio, me la accarezzo. Però aspetta una cosa su ieri, la cosa più grave di ieri, è stato Bonanni che ha detto: noi i reati fiscali devono diventare reati penali. Cioè, praticamente questo vuole 10 milioni di processi in più, con 10 milioni di arrestati dentro le carceri in più, con le carceri che abbiamo, ma non si rende conto della pazzia che ha detto. Ho capito, però che deve passare allora il messaggio? Evadete, ma abbiamo 10 milioni di posti nelle carceri? No, questo... E allora, come, nel momento in cui noi andiamo, c'è quel poveretto, quel sant'uomo di Pannella che sciopera per la fame, inascoltato per la 40ª volta, Marco, sta al governo, hai nominato Pannella, mi si stava rompendo un microfono qui nello studio, no? Sai che Pannella è arrivato qui del Debbio, ha sfacciato tutto, no? Che vuole semplificare la giustizia, dalla mesi arriva quello, no! Pam, 30 milioni di tutti in più, tutti arrestati, tutti italiani. Del Debbio, piace Letta, io ho detto moriremo democristiani, effettivamente è così, c'è tornato proprio la DC. DC. Insomma, Rivi, presidente e vicepresidente vengono da lì, no? Appunto. Sia Letta che Alfano, quindi alla fine gira e gira. E siamo tornati in una situazione del genere, io non lo so, dicono che sia obbligatorio, emergenziale, eccetera, staremo a vedere, io avevo sperato tanto in cose diverse, insomma, staremo a vedere, no, io l'ho scritto. Oggi il Papa torna in Vaticano, Milan, questa è una notizia importantissima. Qua. Perché a San Giovanni stava malissimo, la giornata di ieri è stata San Giovanni. Penso che anche questo Papa che quello di prima. Sì, abbiamo due papi, infatti, sì, è incredibile, cioè, due papi in Vaticano. Non ci facciamo mancare nulla. Non c'è, no, due papi in Vaticano. Credo che anche il nuovo papa, che è aperto, eccetera, sì, si è visto la scena di quello lì del primo maggio. Vabbè, ma basta questa cosa del primo maggio, chi se ne frega. Basta. Vabbè, e Vincino paghi l'IMU? L'IMU. Un disastro, l'IMU è proprio una, infatti ho molto sperato, sto sperando molto in questa cosa qua, eccolo, no? Lì, che per la prima casa me la levi e me la diventa berlusconiano, io sono subito favorevolissimo a levare l'IMU, per la prima casa, per le altre cose lasciarle, quell'altra, per la prima casa ci stiamo un po' tranquilli, come dire, non è... L'IMU, siccome l'IMU è una tassa, non è né di destra né di sinistra, elevarlo non è di destra né di sinistra, è così, una cosa... È cosa giusta. È cosa... E sono anche per il salario sociale, quello là, per ma la... sì, reddito minimo. Ma dove si trovano i soldi? Ma del debito? Ma io te lo dico dove. Aspetta, dove? Ieri in Sicilia la finanziaria ha approvato di dare soldi a altri 100.000 precari. Ecco, che ognuno città per città, come dire, figli di politici, nel senso ogni politico ha adottato i suoi 5-10.000 che poi dopo lo votano. Se fanno una leggina vicino, se poi fanno una leggina ad hoc per finanziarlo nazionale, poi la paghiamo anche noi due, sai, Vincino? Aspettami, leviamo tutte queste cose qua, leviamo anche il grosso della cassa integrazione e mettiamo a tutto. Ma il grosso della cassa integrazione? Ma siamo matti. Scusa una cosa, la cassa integrazione è solo per le ristrutturazioni, quando la fabbrica dice ferma, ma no, quelle là durano 5 anni, 6 anni, sono dei poveretti. Ho capito, ma bisogna trovargli un posto di lavoro però alle persone, perché sennò si creano del debito. Ma chiediamo il reddito così dei cittadini. No, la cosa che dice Vincino potrebbe essere... Sì, ma ci vogliono i soldi per dare... Significherebbe rifare tutto, cioè ci vuole coraggio, nel senso che si può togliere tutto e quindi non difendere come si leviamo dice. Leviamo tutti i sussidi clientelari e diamo la cosa a tutti. L'assegno a quelli che... Però bisogna rifare tutto. Mi sembra un po' complicato, non si riesce neanche a rifare la legge elettorale. No, infatti, no, la legge elettorale. Settimana prossima riparto con la conta delle settimane. Ma quella di Ciani, si è fatto una cosa a PAC. Approviamo questa e automaticamente ritorna quella che era, faceva schifo, ma insomma un po' meno peggio. Vabbè. In ogni caso, ma del debito, perché non è su Twitter? Cioè, su Twitter, no? No, non ci penso neanche. No, non ci pensa neanche, io tutte le volte non so come lanciare, diciamo c'è Paolo del Debbio, ma niente, Vincino. Uno lo dice alla radio, chi ascolta la radio e poi ci sintonizza. Vabbè. Ma oggi chi c'è come ospite stasera? Vediamo. Tutto è in ebollizione. Tutto. Milan, ma te chi ha mai invitato del Debbio? No, a me non mi ha mai invitato. A me nemmeno. Forse neanche a Giglioli ha promesso che lo invitava qui in onda, ma lui promette di invitare tutti. Poi c'ha 10 trasmissioni, non può mica. Ma io pensavo Milan, ho detto a quell'ora magari dorme già. più o meno. Dalle scuse per tutto, cioè, va bene. Buona giornata, chiude il Parlamento. Grazie a Vincino, grazie a Paolo del Debbio. Ci ritroviamo presto, è tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Ventiquattro Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, cari ascoltatori, siamo qui con voi, sono le 7:20 minuti, questo è lo spazio dedicato di solito alla rassegna stampa. Io mi sento un po' nudo, oggi sono senza giornali ovviamente, perché ieri era il primo maggio e dunque i giornali il 2 maggio non escono, ma fino alle 8 che facciamo? Parliamo un po' di quelli che sarebbero i giornali virtuali, quelle che sarebbero le notizie se fossero pubblicati i quotidiani, per questo ci aiutano, sono qui a chiacchierare con noi. Uno è un giornalista che però è stato, come definire, giornalista politico, deputato uscente, Andrea Sarubbi, buongiorno e ben trovato. Allora, deputato del PD fino all'ultima legislatura, ora che fai? Adesso sono tornato, come dovrebbe fare chiunque ha un'esperienza politica, al mio lavoro precedente, con però la differenza rispetto ad altri miei colleghi che ero un libero professionista, quindi non avevo un posto garantito e quindi mi sono rimesso in pista. Perché, insomma, 41 anni non è semplicissimo, però insomma, faccio il mio lavoro e ci provo. Certo. Tra l'altro, cronista parlamentare ha lanciato anche questo, cos'è, open camera su Twitter, per chi lo vuole seguire. Beh, adesso devo essere grato alla stampa, perché Mario Calabresi mi ha chiesto di continuare a farlo anche per loro, per il loro sito. Per cui credo che, insomma, la cosa stia prendendo piede e sono contento comunque di fare un servizio, perché sto spiegando un po' il Parlamento a persone che magari non sono addette alla voce. Ecco, tra poco magari ci spiegherà anche tutta la bella disfida per i sottosegretari. Io dico, venghino signore e signori, ci sono una settantina di seggiole da ricoprire per questo bel governo di larghe intese. Comunque, insieme a Andrea Sarubbi, saluto Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Buongiorno, ben ritrovato Massimo, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Allora, se ci fossero i giornali oggi in edicola, non so con cosa aprirebbero la politica. Ieri il nostro premier Letta ha parlato con il presidente francese Hollande, poi con Van Rompuy, cioè il presidente del Consiglio europeo. Poi in Italia si è celebrato il 1° maggio, manifestazioni, qualcosa sentiremo, solite polemiche anche, eccetera. La politica che litiga per l'IMU, litiga per i sottosegretari e poi qualcosa di cronaca. Ma iniziamo allora il 1° maggio, ieri a Torino, e vorrei subito chiedere a Sarubbi, in questo caso da responsabile, così da politico del Partito Democratico, quello che è successo a Torino. Lo sentiamo anche in audio, le contestazioni al PD, le contestazioni sì, addirittura via PD e polizia, cioè per questi contestatori, questa comunanza. Lancio di uova, qualche contestazione. Allora, Andrea Sarubbi, questo è un po' il clima, cioè alla prima prova della piazza dopo questo governo delle larghe intese, non dico ovunque, non dico da tutti, ma ci sono state delle contestazioni al PD. Allora, questo governo è digerito dagli elettori oppure no? Ma dunque, io devo fare una premessa. Beh, tanto naturalmente parlo sempre a titolo personale, già da diversi mesi, e non più a titolo del PD, al quale non sono neanche iscritto, tra l'altro, quindi diciamo le cose che dico le dico per me. Ma io, quando ero un deputato del Partito Democratico, giravo molto l'Italia a parlare di immigrazione e di cittadinanza, che era un po' il mio tema, il tema in cui ero specializzato era i nuovi italiani. E una volta, cioè veramente varie volte, però insomma una di queste volte sono stato invitato a Torino e andai al CERMIG, il servizio missionario giovani di Ernesto Livello, insomma un posto molto, molto bello, molto interessante. E venne con noi uno degli assessori più in gamba che è a Torino, che è Ilda Curti, assessore all'integrazione, all'urbanistica anche attualmente. Cominciamo a parlare di un tema che dunque, diciamo, alla platea di sinistra dovrebbe essere abbastanza caro. Appena prese la parola Ilda Curti, dalla platea mimetizzati uscirono fuori degli autonomi, dei contestatori, con degli striscioni, eccetera, e bloccarono la nostra conferenza. Quindi Torino ha un... E lei mi disse, mi spiegò, che dovunque andasse un rappresentante del PD e dovunque andasse lei, c'era questa contestazione. Per cui diciamo che è una cosa anche abbastanza torinese, quindi la contestualizzerei da questo punto di vista. Poi è chiaro che in questo momento il PD soffre molto la piazza, però secondo me un partito serio lo deve mettere in conto. Secondo me, io non voglio fare adesso come posso dire, quello che dice Mangino Brioche, però è evidente che il 1° maggio in questo momento, negli ultimi anni, è diventato un fenomeno un po' a metà strada tra la sinistra e la sinistra autonoma, tra le rivendicazioni legittime, giuste, sul lavoro, e la contestazione nuda e cruda. Infatti, che cosa è successo tra l'altro a Torino, De Manzoni? Oggi immagino voi come avreste messo in risalto giustamente quei 4 deficienti che hanno esposto anche uno striscione che inneggiava in qualche modo a Preiti, cioè l'attentatore di Roma. È successo anche questo, Massimo, purtroppo? Sì, inneggiava, e neanche in qualche modo, inneggiava proprio, cioè, ha dedicato il 1° maggio a Preiti, che è una cosa assolutamente vergognosa sotto tutti i punti di vista, anche perché quello ferito era un lavoratore, Preiti invece era un attentatore, quindi anche in ogni caso parlare durante il 1° maggio, festa dedicata al lavoro, e dedicarla a un uomo che ha sparato cercando di ammazzare un onesto lavoratore che per pochi soldi faceva il suo mestiere, una cosa che la cosa vergognosa. Sì, per carità, qua c'è sempre il rischio poi di prendere un particolare per definire quella che è stata la, non so, la festa del primo maggio, in questo caso a Torino. Non è così, cioè bisogna sempre contestualizzarlo. Erano evidentemente un gruppo di, io gli ho detto deficienti, non ho paura a ridirlo, che hanno esposto questo striscione. Non bisogna prendere la parte per il tutto, ecco. Verissimo, però questo tipo di giustificazione nei confronti di Preiti è abbastanza strisciante. E c'è cascata anche la Presidente della Camera ancora ieri. Eccolo dicendo... lì, infatti, sì, Massimo, sì. Ma no, hai tolto le parole, perché lo sentiamo dalla viva voce della Presidente della Camera, Laura Boldrini. Io ne ho parlato anche alle 6.30 e qua è nata la discussione anche in redazione con Miriam Lucchetti, che mi diceva, ma insomma non è così scandaloso quello che dici. Però secondo me, per carità, non è scandaloso, ma la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha ribadito ieri, lo sentiamo ora in audio, che la disperazione può portare a gesti come quello di Preiti. È un rischio di arrivare a giustificare questo, non giustificare dal punto di vista che ha fatto bene, no, ma come dire, vabbè, era disperato. E allora, cioè, non è che se uno è disperato imbraccia un'arma. Ma sentiamo la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Il lavoro è l'emergenza numero uno, è la madre di tutte le emergenze in questo paese. Bisogna dare delle risposte concrete alle persone. A volte c'è disperazione e le persone per disperazione arrivano a fare qualsiasi cosa. Lo abbiamo visto purtroppo anche di recente, non vorremmo più rivederlo, non vorremmo più vedere, ecco, gente che si toglie. Massimo De Manzoni, Andrea Sarubi, per disperazione si arriva a fare anche purtroppo alcune cose. Per carità, non sono giustificate, ma è un po' scivoloso come discorso, o no? Massimo. È molto scivoloso, anche perché poi, io ribadisco, l'ho già detto in altre occasioni in questi giorni, ma più emergono particolari sulla figura di Preiti, meno questa frase buttata lì è giustificabile, perché non può essere il simbolo della disperazione una persona che i soldi, per pochi che siano, se li gioca al videopoker o a un tavolo di biliardo, perché la disperazione arriva dopo. Finché hai dei soldi da buttare via, vuol dire che non sei poi così disperato. Sì, poi la disperazione, cioè, purtroppo in questo momento in Italia, vorrei coinvolgere anche Andrea Sarubi, è abbastanza diffusa, però non per questo la disperazione deve portare per forza a gesti di questo genere, fortunatamente, se poi è la disperazione che ha portato a questo. Però Sarubi, non trovi un po' pericoloso il discorso del Presidente della Camera? Dunque, io ho un'amicizia personale di lunga data con Laura Boldrini, quindi spero di non comprometterla con quello che sto per dire. Però secondo me Laura è stata un pochino vittima di un certo buonismo scontato che a volte nella sinistra classica emerge spesso. Cioè, io la vivo molto da cristiano. Da cristiano il Vangelo mi ha insegnato sempre che dietro un atto, qualsiasi atto, dietro ogni degrado si nasconda un disagio. E quindi io vado a cercare il disagio. E a volte mi capita di essere buonista, lo ammetto, no? Quindi per esempio nei confronti dei Rom molto spesso vado a cercare il disagio che c'è, cerco di capire le loro ragioni, le loro difficoltà, e in controtendenza, controcorrente, mi becco spesso delle ventate di persone che invece la vedono diversamente. Credo che Laura Boldrini abbia applicato lo stesso schema, che a mio parere è uno schema giusto, no? Cioè quello di capire il disagio che si nasconde dietro a un degrado, quindi in questo caso la ragione che si nasconde dietro a un gesto, e che però nella brevità di una battuta di due righe rischia di giustificarlo, cioè rischia sì, di trovarne si è un po' scivolata nella frase, ma sì, siamo buoni, perdoniamo. Invece visto che si abusa molto del termine eroi e compagnia bella, secondo me il cittadino da lodare in questo momento e da ringraziare è quello che, pur vivendo una crisi profonda come questo è il messaggio, questo è il messaggio che deve passare, infatti, secondo me, cioè l'idea che fa un torto, peraltro, questa giustificazione tra virgolette, a tutte le migliaia di italiani che sono davvero nella disperazione, ma si rimboccano le maniche, cercano di arrabbattarsi, cercano di trovare il modo, perché altrimenti sembra che Laura Boldrini abbia preso dell'attentatore. Proprio due giorni fa, se non sbaglio, la figlia di Gian Grande, quindi del carabiniere ferito, ha ringraziato le istituzioni e in particolare testualmente ha detto: io ringrazio Laura Boldrini, ti ho sentito particolarmente vicina, forse anche perché ho perso da poco mia mamma. Quindi voglio dire, non è che è una... No, ma per carità, nessuno vuol dire questo. Cioè, Laura Boldrini, terza carica dello Stato, è stata molto molto vicina alla famiglia, ha condannato il gesto, però è già la seconda volta che dà questa giustificazione, a dire la disperazione può portare anche a gesti di questo tipo. In ogni caso, ripartiamo tra 4 minuti con Andrea Sarubbi e Massimo De Manzoni. Ci sono tante cose da dire, anche le polemiche, il primo maggio, vabbè, insomma, ci sono state, oltre alle polemiche per la striscione di Previti, i Preti, c'è uno che ha esposto il preservativo come un'ostia durante il concerto, e poi altre cose, la politica italiana anche, ovviamente, l'IMU, si litiga sempre su quello. 24 mattino. Mi piace lei. Onorevole, sì. Persona per bene. Mi piace lei? Sì. Persona che è uno sport, sta in un angolo, sì. Faccio dovere, sì. Mi piace molto. Mi piace. È una sinistra nuova, rinnovata. Sì, in effetti. Sì. E se fa il nostro programma, lo votiamo. Come, e poi gli diamo anche un croccantino. No, ma scusi, com'è il vostro programma? È il loro, quello del loro partito? Quale è il loro partito? Il partito di che partito? Il partito di Letta. Il partito di Letta è il PDL. No. Partito di Letta. No. Vabbè, era Crozza. Siamo con Andrea Sarubbi e Massimo De Manzoni. Era Crozza che faceva Brunetta. No, De Manzoni è un po' così. Il PDL è il partito di Letta. Oh, questa cosa delle larghe intese. Ma anche a voi di Libero non va bene. Io pensavo che a Libero, insomma, si accettasse questa cosa. Invece state bacchettando mica male. Non è le larghe intese in sé che non vanno bene, perché il risultato elettorale è quello che è, e quindi era quasi una soluzione obbligata. E noi stiamo guardando come vengono realizzate queste larghe intese, cioè in che cosa si traducono, in che operazione di governo sforzano, e facciamo il nostro mestiere, siamo critici, quando faranno delle cose buone lo diremo, intanto che vediamo solo parole, perché la formazione del governo ci ha lasciati perplessi, perché non si sono impegnati big, e sembra quasi che si tengano le mani libere per poi far saltare il banco alla prima occasione. Io ho detto come quando in Coppa Italia metti la squadra di riserva, tanto poi se esce la Coppa Italia, vabbè. Ma un pochettino quello. E poi il programma di Letta è favoloso, peccato che non abbia detto dove diavolo prende dove i soldi per soldi. Realizzarlo, per cui stiamo qui, siamo qui tutti in attesa ad applaudire, pronti a applaudire. Per esempio, giusto per sfatare, il fatto che ieri Letta abbia finalmente detto a chiare lettere che metterà mano alla riforma Fornero, la riforma del lavoro, sto parlando, del mercato del lavoro, è una buona cosa. È una cosa da applausi, francamente, perché la riforma Fornero sul mercato del lavoro ha creato più disoccupati dei problemi che doveva risolvere. Allora, come detto, Massimo De Manzoni è il vice direttore di Libero, siamo con Andrea Sarubbi, anche ci aiutano in questo giorno in cui la rassegna stampa è virtuale, nel senso che non abbiamo i quotidiani. Andrea Sarubbi, io da giorni che dico è tornata la Democrazia Cristiana, tu sarai anche contento magari, non lo so. No, io diciamo sono contento quando in politica si parla anziché insultarsi. Questo però. E devo dire che tutte le proposte di legge che avevo fatto da deputato erano proposte di legge bipartisan, a cominciare da quella sulla cittadinanza ai figli degli immigrati, per passare a varie altre, sulle mine antiuomo, eccetera, eccetera. Io, visto che nascevamo da una posizione di minoranza come centrosinistra nella scorsa legislatura, ho cercato sempre l'appoggio della maggioranza, perché secondo me questo non deve essere un tabù, anzi. No, questo no, però qua siamo sembra che siamo alla melassa qua, proprio, no? Al miele spalmato in Parlamento. Io credo che un'operazione di questo tipo possa riuscire se le due parti sono entrambe in buona fede. Se una delle due non è in buona fede, salta tutto. Allora, già adesso vedere che dopo un quarto d'ora che Letta è entrata al governo si comincia a tirare la corda, secondo me vuol dire che è soltanto una trappola a scoppio ritardato. Cioè, con che cosa? Cioè con l'IMU? Così con la non questione si va di... Per esempio, queste polemiche sull'IMU mi sembrano veramente folli. Se uno lo mette come condizione all'inizio, vuol dire che tu hai in mente che aspetti i sondaggi e prima o poi lo fai cadere quando quando ti conviene di più, allora così era meglio non cominciare. Sì, Berlusconi sta facendo un po', De Manzoni, Berlusconi sta facendo un po', no, quello che fa contare un po' troppo i suoi voti, dice l'Imu, l'Imu, però giustamente non è che è da solo, l'Imu la voleva togliere, se andava al governo lui, adesso si cerca una sintesi, non è che può dire... Andava al governo lui, la voleva anche restituire, appunto. La restituzione magari salta, però anche perché poi... Cioè l'Imu, la restituzione dell'Imu, penso intanto che faccia piacere a tutti gli italiani eventualmente, ma poi va nel senso che in cui spingono tutti e hanno spinto tutti in campagna elettorale, cioè bisogna diminuire la pressione fiscale. L'Imu è una tassa, togliere l'Imu è una diminuzione di tasse. Francamente le barricate con pro Imu io faccio fatica a capirle, poi dopo non è decisiva, perché non è quello che rilancerà il paese. Però è un segnale, qualche soldino lasciato nelle tasche. Sono contenti gli italiani che hanno la casa, cioè quelli che magari che magari non hanno la casa dicono no, chi ha una casa deve pagare, è giusto che paghi, sai che c'è sempre questa lotta di classe sommersa, no? Poi in Italia è strisciante, sì, però non è che i ricchi paghino. Se il mio vicino sta un po' peggio di prima io sto meglio. Questo sono d'accordo, però è molto italiano come discorso. Sì, però bisogna fare, è una delle tante cose che bisogna fare, però perché l'Imu no? Cioè, questa battaglia pro Imu a me sembra veramente folle. Dobbiamo diminuire le tasse in questo paese, dobbiamo liberalizzare il lavoro perché le imprese possono ricominciare ad assumere un po' di persone, anche a stipendi ridotti, ma viva Dio è sempre meglio che stare a casa, sì. E bisogna ridurre le tasse sulle imprese soprattutto, perché così non sono competitive. Ragazzi, se le imprese non lavorano, perché poi abbiamo questa visione strana noi della vita, se le imprese non lavorano, non c'è lavoro. La gente sta a casa, gente sta a casa, non ha i soldi per andare nei negozi, se la gente rimane nei negozi, i negozi chiudono, e chi lavora nei negozi va a casa a sua volta, è un gatto che si morde la coda, bisogna che interrompiamo questo ciclo, quindi fare le battaglie a favore di una tassa a me sembra una follia. Allora, tra l'altro, vorrei adesso chiedere un giudizio, dopo aver fatto sentire un altro stralcio di Crozza due giorni fa, ad Andrea Sarubbi su Enrico Letta, sulla figura di Letta, perché ha quest'aria molto ecumenica, molto tranquilla, molto un po' da boy scout, un po' da chierichetto, un po' da uomo, si direbbe, con tutto rispetto, giovane vecchio, cioè giovane ma molto posato, molto esperto, molto... sentite Crozza. Quanto mi è piaciuto a me il discorso di Letta ieri, caro Giova, mi è piaciuto da morire, la parte migliore per me è stata senz'altro l'omelia, su gesti, parole, opere, omissioni, brutto un brivido, mancava solo scambiatevi un segno di pace, fate questo in memoria del PD... E poi c'era tu. Sarubbi, più o meno così. Ha detto, cioè, che tipo è Letta? È proprio così, molto, molto ecumenico, forse non riesce ad appassionare, oppure adesso però Sarubbi ci dirà, ma no, ma la politica che conta, la politica che serve, Andrea. Ma no, non voglio né difendere né attaccare, io ho trovato i discorsi abbastanza concreti. Lo si prende in giro per le citazioni bibliche che sono a me le cose che sono piaciute di più. Sarubbi cattolico di parte. Siamo Davide contro Golia. Secondo me è stato un ottimo discorso. Io ho trovato molto belle le due repliche, cioè normalmente questo è un rituale, quello della replica, per cui si sta là, si fa finta ad ascoltare quello che ti dicono i 50 deputati o 20 quanti sono che intervengono e si ripetono più o meno le stesse cose di prima. Invece Letta le ha ascoltate uno a uno, ha preso appunti e ha risposto uno ad uno a tutti gli intervenuti alla Camera e al Senato. E secondo me ha dato una grande prova di ascolto. Credo che Letta in generale abbia una grande capacità di ascolto. E poi secondo me la sua qualità migliore in questi anni nel Partito Democratico, per quello che ho visto io di 5 anni, è che Letta è stato molto bravo a fare in quelli che si chiamano politicamente i territori, cioè in giro per l'Italia, delle squadre di persone in gamba. Cioè quando io andavo in giro e incontravo una persona in gamba, molto spesso, 2 volte su 3, scoprivo poi dopo che era della corrente di Letta. Di Letta. È stato molto bravo a raccogliere forze positive in giro per l'Italia. Quindi se mette a frutto questa roba anche nel cioè ci stai dicendo che Bersani ha sbagliato, ci stai dicendo che Bersani ha sbagliato tutto sulla politica del territorio? No, questo no, però magari con Bersani andava anche il militante in senso stretto, anche senza grandi competenze alcune volte, no? Premesso che poi Letta e Bersani sono stati contigui, penso che Letta non si è mai staccato da Bersani in questi anni. Io questo gli ho sempre rimproverato, perché secondo me avrebbe dovuto avere più coraggio di giocare il proprio. Invece non l'ho avuto, però poi adesso... Però poi per quegli strani casi della vita si è ritrovato, lì, gli è andata bene. Sì. Comunque, insomma, concreto il discorso. A me sembrava un discorso in cui c'era tutto, insomma, via le tasse, via l'IMU, via le tasse sul lavoro, via le tasse, via il finanziamento ai partiti, il reddito di cittadinanza, via le province, e qui si udivano le grasse risate degli astanti, via... fare la nuova riforma elettorale, De Manzoni c'era tutto, mancava, cioè è un programma eccezionale, io l'ho detto, re Enrico Letta se no, fa il 50% di ste cose. Il problema è un programma fantastico, ha detto tante cose bellissime, ma non ha detto quale parte lascia scoperta, se i piedi o la testa, perché è evidente che la coperta è corta e quindi per esempio non ha detto se tocca le pensioni. Qualcosa dovrà fare, non so, Massimo, qualcosa dovrà fare, a qualcosa dovrà rinunciare, perché se fa tutto questo, chi è? Sì, è intanto un programma di legislatura, cioè chiaramente per fare tutto questo bisogna durare tanto. E, ripeto, le cose più urgenti da fare sono sul piano economico, questo non ci sono discussioni, e lui l'ha sottolineato. Il problema è che ne ha messe lì tante. Fare insieme all'abolizione o l'abbassamento, l'abolizione dell'IMU, la prima casa, abbassare le tasse sulle imprese, mettere il reddito di cittadinanza, ci vogliono tantissimi soldi. Noi abbiamo fatto il calcolo, noi di Libero, il programma di Letta vale 30 miliardi l'anno. Più o meno è così, a stare magari 20-25, bisogna trovarli chiaramente, e non bisogna mettere nuove tasse, perché sennò il gioco non vale più. Magari si tagliasse la spesa pubblica, io ho sempre detto è una cosa che vogliono tutti, ma non tutti, c'è sempre il partito della spesa pubblica che ha una sua buona percentuale in Italia. Facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi eccezionalmente rimandiamo anche la segreteria telefonica, di solito la mando alle 6:30, ma la segreteria telefonica dei nostri ascoltatori, così poi chiamate anche in tanti, e siamo sempre con Andrea Sarubbi e Massimo De Manzoni tra poco. Glielo diamo un posticino a questo poverino sul governo? Troviamo un buco? Non è che deve sempre rintanarsi nell'ospedale per non andare davanti ai giudici? Troviamo un posticino per questo poverino? Allora, Milan, vogliamo chiudere l'imuteca? Bene, chiudiamola però ai veri bisognosi, quelli che hanno solo una casa e non pagano più di 500 euro e che rimangono a pagare i soli ricastri. È chiaro? Chiara Levilli, vari Berlusconi, eccetera. Quelli che pagano pure, per loro l'imuteca è sempre aperta, anzi spalancata. Io approfitto per fare un appello a Silvio. Silvio! Non cominciare a dire se no fai cadere il governo. Attenzione, chi troppo vuole nulla stringe, non tirar troppo la corda. Hai detto che rendevi l'IMU se governavi tu. Ora sei insieme a Enrico Letta, ti fa tutto il possibile. E allora, come hai anche detto, mettici il tuo denaro se proprio insisti. Mi fa piacere che il senatore sia stato cacciato dal Movimento 5 Stelle, è il primo segno di una valanga, si disintegrerà il gruppo delle 5 Stelle, è solo questione di tempo, ciao. Milan, un dubbio mi tormenta notte e giorno. Nel 1800 c'è il dazio sulla neve in Nevera, nel 1900 c'è la imposta sui cani, oggi c'è l'IMU, salvezza dell'Italia. Sono escluse dall'IMU anche i luoghi di culto e tutte le relative 25 pertinenze. E pongo una domanda, ma le migliaia e migliaia di canoniche e anche gli episcopi con le loro pertinenze pagano l'IMU? Qualcuno può sciogliermi questo angoscioso dubbio? Esistono anche le pertinenze delle pertinenze. Vabbè, questi sono suoni, voci della nostra segreteria telefonica 0246524492. Poi magari ci sarà anche lo stacco finale di questa parte di 24 mattino per segnarvi bene il numero di telefono della vostra segreteria. Mandateci i vostri messaggi, noi li ascoltiamo, poi li mandiamo in onda. Siamo con Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, e Andrea Sarubbi. Andrea Sarubbi, ex deputato del PD, oggi cronista, collabora anche con La Stampa, lastampa.it. Andrea, cattolico, allora, hai visto ieri il concerto del primo maggio? No, non l'ho visto. Non l'hai visto. Secondo me ormai è un reperto di modernariato. Sì, abbastanza. La mia versione è quella di Elio e le storie tese. Esatto. sentiamo Elio e le storie tese, che ieri sono andate al concerto del primo maggio e hanno cantato la versione del primo maggio, straordinaria. Grande Elio. Compreso del primo maggio, che in genere si esibisce sotto il sole di pomeriggio, con la chitarra acustica scordata, calante, che la gente che balla torso nudo neanche la sente. Vabbè, insomma, Elio e le storie tese, questa straordinaria canzone che prende in giro tutti i luoghi comuni del primo maggio. Massimo De Manzoni non l'avrà visto, per carità, avrà spaccato la TV appena apparsa la prima immagine del concertone. No, semplicemente per un giorno che non dovevo lavorare, avevo ben altro da fare. Sì, ben altro da fare. Vabbè, insomma. Comunque, questo è Elio e le storie tese, perché c'è stata. Beh, sentiamo Elio ancora. La canzone tipo Bregovic. La musica balcanica ci ha rotto i coglioni, è bella tutto quanto, ma la lunga rompe i coglioni. Cioè, questa canzone di Elio e le storie tese è da, non da applausi, è da standing ovation, è 10 anni avanti. Ma siccome non sono croato, né un balcone balcano, io non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a suonare questa musica di merda. Ma comunque, prima di cantare una canzone balcanosa, ricordati di fare una cosa: lanciare un'inventiva ai danni del capitalismo. Allora noi vogliamo dedicare questa canzone, l'invettiva contro il capitalismo. C'è tutto, Sarubbi, c'è tutto il primo maggio in 5 minuti di canzone. Come ha scritto uno dei più lucidi giornalisti viventi, che vivrà ancora a lungo, tal Simone Spezia, che forse voi conoscerete. Certo. Dopo in onda alle 9, come no? Un quarto d'ora fa, sì. Simone ha twittato testualmente, devo dire pure una parolaccia perché l'ha scritta lui su Twitter. Vabbè. La polemica del concertone con uno dal palco che fa qualche troiata è talmente rituale da avere sfondato la barriera. Oh, a quale si riferiva? A quale troiata? Ovviamente a quella che ti facciamo ascoltare, perché tu poi sei cattolico, già mandato del bigottone alle 6:30 perché l'ho fatta sentire e ho detto che è una cosa che è offensiva, ma non nei confronti della chiesa, di chi crede in quella cosa lì, in quel gesto, cioè il gesto dell'esposizione dell'ostia. Allora, tale Massimo De Manzoni, l'hai sentita questa di uno che si è presentato col preservativo? Ho letto sui siti stamattina. Il cantante del gruppo Management del Dolore Post-Operatorio. Questo ecco, è il nome. Il nome del gruppo spiega tutto il gesto. sì, certo. Era più semplice mettere U2, ma insomma, quelli hanno avuto un'altra carriera. Prima di suonare il brano Porno Bisogno, hanno esibendo un preservativo come l'ostia, ha detto questo. Questo è il budello che uso io, che toglie le malattie dal mondo. Prendete e usatene tutti, fate questo, sentite a me. Allora, io sono bigottone e vi faccio sentire un altro che sarà ancora più bigottone di me, Andrea Sarubbi. Ti sei offeso da cattolico per questa? Mi sembra così cretino che non valga neanche la pena offendersi. Devo dire che evidentemente la piazza di San Giovanni attira cose di questo tipo. Mi ricordo, certo. Mi ricordo un'altra fenomenata, quella del 2007 di Andrea Rivera, che insomma davanti alla cattedrale di Roma, senza motivi contingenti, si mise a sparare contro la chiesa, ci fu una polemica enorme con l'Osservatore Romano, che poi chiaramente me la ricordo vagamente. Ma io penso una cosa: se fosse stato anziché un preservativo che simulava l'ostia, no? Una kippah ebraica, e ci si fosse messo a mangiare gli spaghetti dentro, la comunità ebraica che avrebbe detto, si sarebbe arrabbiata e probabilmente avrebbe richiesto le scuse di qualcuno. Se avesse preso un velo, sì, no? E un velo sarebbe morto, sarebbe già morto. E l'avesse usato come mutanda, no? O come carta igienica, che cosa avrebbero detto? Beh, avremmo detto ci vuole rispetto per le credenze. Allora io l'ho messo in chiusura, ho 20 secondi Massimo De Manzoni, tu che ne pensi? Un editorialino del vice direttore di Libera su questa ostensione. È talmente cretino che con quel nome di band che ha, l'unica cosa che voleva ottenere è di essere ricordato, vai a comprare un CD Management del dolore post operatorio, vai a comprare un CD su questo. Non lo ricorderemo neanche, è giusto così. Vi ringrazio intanto Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, Andrea Sarubbi per essere stati con noi in questa rassegna stampa un po' diversa, senza giornali, che domani tornano. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, dopo il tour europeo, Enrico Letta ha incontrato il presidente francese Hollande, ha incontrato Angela Merkel, ha incontrato Van Rompuy e ora torna a confrontarsi con le questioni sul campo della politica italiana, prima tra tutte le intese, ma anche un po' i litigi. Sapete che appena è nato il governo, la questione dell'IMU soprattutto è stata al centro del dibattito. Il centrodestra vuole che venga cancellata, come hanno detto in campagna elettorale, Berlusconi spera anche che venga addirittura forse restituita quella pagata, ma pare che manchino le coperture, non si capisce bene se ci sarà l'abolizione, il rinvio. Intanto abbiamo sentito anche in GR24, i comuni fanno già i conti sulla tassa di giugno che pensavano di incassare, che invece non sarà incassata. Pare che Letta, questo diceva Repubblica 3 giorni fa, partendo per il tour europeo, abbia definito tutta questa un'inutile cagnara. Sta di fatto che, cagnara o no, ci si confronta con la politica. C'è anche il tema dei sottosegretari, una 70ina di poltrone che dovranno essere assegnate in questi giorni per completare la squadra di governo. Vogliamo parlare di questi temi politici, anche do il numero per gli ascoltatori, 800 24 00 24. Lo facciamo con Renata Polverini, onorevole del Popolo della Libertà, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Saluto Stefano Fassina, invece deputato del PD, responsabile economico del partito. Buongiorno Fassina. Buongiorno a te. Prima della questione politica, Fassina, le faccio una domanda sul primo maggio, perché ha visto che ci sono state contestazioni anche a Torino, per esempio, dure contestazioni al PD, intendo, contestazioni che anche lei ha vissuto sulla propria pelle. Lei un po' le capisce queste contestazioni? Ma guardi, bisogna distinguere, perché le contestazioni a Torino sono una tradizione come il primo maggio, cioè ci sono gruppetti assolutamente minoritari che puntualmente fanno contestazioni. Mi ricordava il segretario, un ex segretario della Camera del Lavoro della CGIL, che addirittura qualche anno fa si mise una bomba carta nella sede della CGIL. Quindi fa parte Torino, del primo maggio, dice. Torino ha questa peculiarità. Dopodiché è vero che c'è una parte del nostro popolo che è in grande sofferenza per quello che è avvenuto in queste settimane e a disagio con la scelta che abbiamo fatto di sostenere il governo, di fare il governo Letta e di sostenerlo insieme al PDL, insieme a Scelta Civica. Però ecco, tenderei a distinguere assolutamente minoritari che ovviamente condanniamo, come condanniamo ogni forma di violenza, con un disagio reale che stiamo affrontando discutendo nei circoli, discutendo con i nostri militanti. A proposito di questo disagio, ma lei personalmente le ha digerite queste larghe intese? Ma guardi, è evidente, noi l'abbiamo detto in tutti i modi, che avevamo un'altra prospettiva, volevamo un governo di cambiamento, il risultato elettorale non ha consentito di arrivare all'obiettivo, abbiamo cercato in tutti i modi delle strade per evitarlo, non ci siamo riusciti, credo che il paese non si può permettere oggi di tornare alle urne, in particolare con questa legge elettorale che consegnerebbe comunque un Parlamento difficilmente in grado di avere una maggioranza omogenea. Ci sono emergenze economiche e sociali, oltre che emergenze di moralità della politica, che vanno affrontate, quindi con realismo e con la consapevolezza che se noi non diamo, noi in generale come sistema politico, non diamo risposte a lavoratori, a imprenditori che sono in grande difficoltà, la frattura tra politica e cittadini si amplia con poi sempre maggiori difficoltà. Ma l'avete accettata in gioco forza, diciamo, in questa situazione molto, molto peculiare. Io uno dei temi su cui si discute è appunto l'IMU. Allora, onorevole Polverini, faccia capire dal Popolo della Libertà, perché siete stati un po', devo dire, anche Berlusconi ondivago sulle questioni. Cioè, voi volete la cancellazione, questo lo sappiamo, sulla prima casa, ma volete, pretendete anche la restituzione come Berlusconi chiedeva in campagna elettorale, o almeno su questo siete pronti a fare un passo indietro? Ma guardi, intanto la questione dell'IMU non è soltanto il cavallo di battaglia con il quale abbiamo portato a casa un risultato elettorale inaspettato, quindi che probabilmente ha toccato insieme all'IMU i temi più scottanti e comunque che al momento stanno più a cuore alle persone, ma è anche una tassa ingiusta. Io ieri ho partecipato ad una manifestazione nel 1° maggio insieme a tanti lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, giovani che non l'hanno mai trovato, persone che si confrontano con la riforma delle pensioni con grande difficoltà. Ho sentito anche tanti lavoratori, tante persone che ovviamente hanno apprezzato il nostro impegno sull'IMU e sperano che almeno questa tassa venga abolita. Dopodiché lo stesso Presidente Berlusconi, ricorderete, nei giorni in cui si stava formando questo governo di grande coalizione, disse che era ovvio che non si poteva portare a casa il risultato del 100% delle nostre richieste. Questo fa parte, quindi, restituzione, ovviamente, no, dello stare insieme. No. Noi ad oggi chiediamo l'abolizione e chiediamo la restituzione. Naturalmente sappiamo che ci sono tante altre grandi questioni con le quali ci dobbiamo confrontare, ci sono le coperture che vanno trovate. Ieri lo stesso Presidente del Consiglio ha detto che il ministro appena insediato sta cercando di trovare almeno la prima soluzione per questa rata di giugno e per poter dire quale sarà poi il futuro di questa tassa così ingiusta, e su questo piano ci confronteremo. Del resto, accettare un governo di coalizione significa appunto negoziare punto per punto quelle che sono state le nostre parole d'ordine e le loro. No, voi partite dalla richiesta maggiore, insomma, per il momento, abolizione, che è quello che ha detto Letta, cioè Letta per il momento ha detto sospendiamo la rata di giugno. Guarda, io vorrei però anche restituzione, che voglio dire. Io vorrei dire che è chiaro che c'è bisogno di un intervento fiscale, di una riforma fiscale che in qualche modo dia una risposta più completa, più complessa a quello che è un problema di un paese che è in dubbio ormai la più alta tassazione, direi quasi del mondo, insomma. Abbiamo visto dei dati che ci fanno veramente preoccupare. Però sulla questione dell'IMU va fatta una riflessione. Insomma, qui abbiamo famiglie che pagano il mutuo, che hanno dovuto sospendere la rata di mutuo di dicembre per poter pagare l'IMU, cioè stiamo parlando di qualcosa che interviene pesantemente, in particolare sulle famiglie monoreddito. Quindi da questo punto di vista è una battaglia che noi intendiamo portare fino in fondo, almeno per la prima casa, in un paese dove oltre l'80% delle famiglie hanno una casa di proprietà. No, ma questa è la battaglia che in campo elettorale è stato uno dei cavalli di battaglia, come ha detto lei, di Berlusconi, praticamente in tutta la campagna elettorale. Mi faccia sentire da Fassina. Fassina, lei l'IMU e questa restituzione, dice Polverini, oltre alla cancellazione puntiamo anche alla restituzione. Questo abbiamo chiesto e questo vorremmo. Ovviamente poi si farà una sintesi, si cercherà punto su punto di mediare, ma questo chiede il Popolo della Libertà oggi. Lei che farebbe con questa IMU? Ma guardi, non possiamo discutere in astratto. Anche noi in campagna elettorale abbiamo proposto di intervenire in modo incisivo sull'IMU, innalzando la detrazione che oggi è a 200 euro fino a 500 euro, in considerazione anche del numero dei componenti della famiglia. Dopodiché, appunto, va contestualizzata, perché parliamo dell'IMU, ma dal 1 luglio avremo un aumento dell'IVA che vale 4,5 miliardi, dal 1 gennaio 2014 un aumento dei ticket sanitari che vale 2 miliardi, quindi certamente a legislazione vigente, cioè norme già approvate dal precedente Parlamento, è in arrivo un aumento di 6,5 miliardi tra tasse e ticket. Ora, vorrei fare semplicemente un discorso, come dire, fattuale. L'IMU, ricordavo la Polverini, non la pagano tutti, ci sono tra il 20 e il 25% delle famiglie italiane, che sono anche quelle più deboli, che sono in affitto, e che la detrazione esistente comporta che un altro 25% non la paga. Ora, che senso ha togliere l'IMU e far risparmiare a una famiglia che vive in un appartamento medio 100 euro all'anno, quando noi poi poche settimane dopo gli facciamo un aumento dell'IVA che magari gli costa 200 euro all'anno più i ticket? Quindi se improvvisamente abbiamo trovato 10-12 miliardi da poter spendere è un conto, siccome non sarà così, credo che vada fatto un discorso di razionalità, perché altrimenti... Cioè, che vuol dire razionalità? Per sospendere la rata, come ha detto Letta, perché questo è veramente tutto, ma cancellarla non si può? Non si può cancellare l'IMU? Io credo che se noi vogliamo sostenere le famiglie più in difficoltà, abbiamo bisogno di evitare l'aumento dell'IVA, che pesa sui consumi, quindi pesa poi sull'attività produttiva delle imprese, pesa sul lavoro, cancellare l'aumento dei ticket, perché sarebbero questi interventi misure più eque e più utili all'economia. Questo è il discorso che secondo me va fatto in modo molto razionale. Sì, l'accusa mi sembra, onorevole Polverini, l'accusa è quella di che state sbandierando una sorta di vessillo che, siccome avete tenuto molto alto in campagna elettorale, adesso di fronte ai vostri elettori non potete più abbassare. Però dice Fassina, facciamo cose, non so, blocchiamo l'aumento dell'IVA, forse è una cosa più concreta. L'IMU invece è una bandiera che avete sbandierato e forse si capisce che anche dal punto di vista elettorale dovete mantenere questa promessa, però... Ma guardi, io continuo a insistere, non è soltanto una questione elettorale, ma è un fatto concreto, abbiamo molte famiglie in sofferenza per questa tassa, poi a ragione Fassina ci sono tante altre tasse che stiamo purtroppo aspettando, ma secondo me diciamo intervenire sull'IMU è anche un messaggio che noi dobbiamo dare alle famiglie italiane nel rispetto appunto almeno della prima casa, perché tra le varie tasse che adesso Fassina non ha ricordato, siamo in attesa della TARES, che come tutti sanno è un'altra patrimoniale sulla casa, perché si pagherà ovviamente la tassa dei rifiuti in base anche alla metratura dell'appartamento, quindi rischiamo veramente di far pesare sulla casa una doppia però patrimoniale, sarebbe, dopo quella dell'IMU. Dovendo scegliere, non sarebbe meglio, come dice Fassina, cioè non bloccare l'aumento dell'IVA, che è trasversale, arriva Guardi, a tutti? Io penso che si può fare l'uno e l'altro. Del resto, lo ha detto il Presidente Letta, c'è un patto, io immagino, no? Comunque che ha portato alla formazione di questo governo. Il patto si basa su alcune misure che intende portare avanti il PDL, altre che intende portare avanti il PD e immagino altre che intende portare avanti Scelta Civica. Per noi la questione dell'IMU è una questione assolutamente fondamentale. Ma anche da far cadere eventualmente il governo? Insomma, il Presidente Berlusconi mi pare di ricordare che qualche giorno fa, proprio entrando in Senato, ha detto questo, ma non abbiamo alcuna intenzione di far cadere noi il governo, anzi lo vogliamo sostenere con forza, perché siamo convinti che in questo momento c'è bisogno di un governo con una maggioranza forte come quella che hanno espresso le due Camere, perché le tante questioni che abbiamo sul tappeto ormai da troppi anni, forse soltanto con una difficile opera di mediazione quotidiana, possono trovare delle risposte. Del resto mi pare che Letta qualche giorno, l'altro ieri, ha chiesto alla Merkel come si fa a guidare una grande coalizione. Non è facile, ovviamente, soprattutto quando si viene da storie diverse, da contrapposizioni ormai diciamo ventennali, però è evidente che questa questione per noi è dirimente, però è inutile che no, ci ma è chiaro, intorno. Ma questo è chiaro, però Fassina, lei recepisce il discorso di dire noi non vogliamo far cadere il governo assolutamente. giustamente dice l'onorevole Polverini, e però queste cose sono, è un patto che abbiamo fatto e bisogna mantenerlo. O vi sentite in qualche modo come quello che tira troppo la corda dall'altra parte, Fassina? Ma ci sono state certamente nei giorni scorsi delle affermazioni di esponenti importanti del PDL che non aiutano, perché atteggiamenti ricattatori o parlare di golden share di qualcuno rispetto al governo non aiuta. Il governo Letta è un governo di compromesso, non è un governo del PDL. E ovviamente le soluzioni che vanno trovate devono essere soluzioni di compromesso, non possono essere le soluzioni che voleva il PD, non possono essere le soluzioni che voleva il PDL, vanno trovate soluzioni di compromesso che, ripeto, tengono conto della situazione data. Io non vorrei fare una discussione ideologica perché non ci aiuta, io vorrei ragionare fattualmente. Non ci sono i soldi, dice, non c'è la copertura. Qua dimentichiamo che il governo Monti ha lasciato a questo governo interventi necessari e urgenti da fare, e mi riferisco ad esempio al finanziamento della cassa integrazione in deroga, mi riferisco agli esodati, mi riferisco all'agevolazione fiscale del 55% sulle ristrutturazioni edilizie, che è stato l'unico motore che in questi anni ha tenuto un minimo in attività il settore edilizio, mi riferisco alle missioni di pace, un pacchetto di interventi necessari e urgenti che valgono circa 7 miliardi e che noi in questo momento non abbiamo e non sappiamo bene dove trovarli. Io ritengo che vada rivisto il percorso di raggiungimento degli obiettivi di deficit, ma come è noto è un punto che va contrattato a Bruxelles, è stato oggetto delle discussioni di Enrico Letta con Merkel e l'Hollande. Quindi noi partiamo da 7 miliardi che dobbiamo trovare. E in più bisognerebbe trovarli quelli, i 4 da i 4 dell'IMU, i 4 da restituire, se la vogliono restituire. Dice, non ci sono i soldi. Ci sono. No, io dico che siccome i soldi sono comunque limitati, sono quelli. Concentriamoci sulle priorità che aiutano, perché se no, noi... ma è chiaro, lei l'ha detto, sono IVA, scongiurare l'aumento dell'IVA, no, e scongiurare l'aumento del disoccupato, uno di quei disoccupati di cui parlava prima Renata Polverini avrebbe probabilmente, magari vive in affitto, non avrebbe alcun beneficio dall'IMU, ma si troverebbe a pagare più IVA. Vabbè, ma dice Renata Polverini, si possono fare tutte e due. Comunque io vi devo chiedere questo in due minuti, una domanda a testa sulla questione sottosegretari e governo. Lei, Fassina, ci ha sperato di diventare ministro dell'economia? Ma guardi, dica la verità, ci sperava un po'. Nel senso, penso di poter dare un contributo, dopodiché sono prevalse altre scelte. Ritengo, ho sostenuto in questi anni posizioni di discontinuità sulla politica economica. Letta, il Presidente della Repubblica, i partner di coalizione hanno fatto scelte diverse e ne prendo atto. C'è tanto lavoro da fare sul versante partito, c'è tanto lavoro da fare in Parlamento, quindi non mancano possibilità. Vabbè, però, di dare però un po' c'è rimasta, un po' ci sperava. Renata Polverini, è vero che vuole diventare sottosegretaria? Così no, dico. Io non spero. C'è una discussione in questi giorni, io credo che ciascun partito esprimerà le persone che ritiene migliori in questo momento, sia dal punto di vista delle capacità e del merito, e anche sia dal punto di vista, diciamo, della capacità di negoziare, di mediare, perché poi ci siamo detti fino adesso che questo sarà un governo che dovrà impegnare molto tempo in questo. Siamo tutti a disposizione, ha ragione Fassina, è un momento straordinario questo dal punto di vista politico, difficile, complesso, ma a mio avviso straordinario. C'è molto da fare, i partiti sono tutti in affanno, in Parlamento lo stesso Letta ha detto che c'è bisogno di un maggior coinvolgimento del Parlamento, quindi anche lì è una sede nella quale si può esprimere, diciamo, il proprio impegno. Siamo tutti a disposizione, ovviamente. Allora, stiamo a vedere come va a finire questa partita, almeno politica. Intanto vi ringrazio, buona giornata. Stefano Fassina, responsabile economico del PD, e Renata Polverini, deputata del Popolo della Libertà. Noi andiamo alla pubblicità e al meteo, poi vorrei sentire il parere degli ascoltatori. 800 24 00 24, dopo il 1° maggio, le contestazioni del 1° maggio, questa storia dell'IMU, la politica, il governo delle larghe intese. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:41 minuti, 800240024. Ascoltatori, è il vostro turno. Silvio dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, sì, buongiorno, eccoci qua. Niente, volevo dire ai nostri due intervistati, sì, che continuano a parlare un politichese. Allora, il politichese ormai è una lingua che la gente non capisce più, non capisce più. Dovete, o meglio, capisce che è politichese. Cosa vorrebbe sentir dire dai politici? Affascina, praticamente vorrei dire che le contestazioni sono più che sacrosante. Quando si dice al popolo che mai con Berlusconi, mai con la destra, mai con gli inciuci basta, ormai la gente non ci crede più, non ci crede lei più. Lei che avrebbe fatto? Perché questo governo... Però guardi, scusi Silvio, lei che avrebbe fatto? Io no agli inciuci, io sono il primo, mi scusi, vi faccio dire, io sono il primo a dire da giorni no agli inciuci eccetera, ma data questa situazione ci sono A, B e C che hanno preso un terzo, C, cioè il Movimento 5 Stelle non vuole accordarsi con nessun altro, l'unica soluzione, certo, piaccia o no, è che A e B facciano qualcosa insieme. No, no. Guardi, qual è? La soluzione non sta a me dirla, sì, dica la sua. Starebbe ai nostri politicanti. Io dico questo: la situazione è chiarissima, c'è una divergenza, una forbice grandissima in tutta Europa, non solo in Italia, lo vediamo in Grecia, lo vediamo in Spagna, perché non ne parlate mai, ma ci sono situazioni molto gravi anche in questi paesi qua. La differenza, la forbice, no, ma mi dica la soluzione di governo, lei come avrebbe fatto un governo? La soluzione del governo era semplice. Bastava che il PD avesse mantenuto la sua parola, cosa che non ha mai fatto, e ma che la destra avesse mantenuto la sua, ci sarebbe stata... Allora, è l'esempio che devono dare. Silvio, l'esempio. Guardi, io non ci capiamo. Lei, il governo, chi avrebbe... scusi, non è che... Ma chi avrebbe messo al governo? Ascolta, con chi? Me lo dica, capisce, tecnicamente. Ma non si capisce per chi ho votato. Non si capisce. Movimento 5 Stelle? Esatto. Ah, non si capisce. Lei voleva consegnare... lei voleva dire... Scusi, mettete il premier del Movimento 5 Stelle. E va bene. Ma questa gente qua non ci può credere più nessuno. Io gli ho capito, altro che 18 Silvio. Mesi. Vabbè, ma lei questa... Altro che 18 mesi. Non arrivano al panettone questa gente qua. Stiamo a vedere. Vabbè, voleva il Movimento 5 Stelle. E non ve l'hanno dato. E non so cosa dirle. Grazie Silvio. Gianluca da Milano, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Benissimo. Buongiorno, ascolti, io sono un professionista nel settore bancario e sono, sì, come tanti, molto stanco della demagogia e del populismo dei nostri politici. Vado molto diretto al punto sul tema dell'IMU e dell'evasione fiscale. Allora, in Italia il bilancio dello Stato fa acqua da tutte le parti per due motivi. Uno, ben noto, che spendiamo e scialappiamo e forse rubiamo troppi quattrini, ma non voglio parlare di questo. Il secondo è il tema delle entrate e dell'evasione fiscale. L'evasione fiscale è elevata perché correre dietro ai redditi è quasi impossibile. I redditi scappano all'estero, sono volatili, non vengono dichiarati, non ci sono ricevute fiscali, eccetera. L'unico modo per riuscire a aumentare le entrate dello Stato è agire dove le ricchezze sono, sì, visibili, dove si da vedono. Cui è nata l'IMU. Quindi gli immobili, i terreni, le case, la tassa. Sì, ma Gianluca, mi scusi, è chiaro. Faccia la storia, lei lo trova giusto o non ci faccia la storia del perché? Io trovo essenziale, perché la tassazione sui patrimoni in Italia, sulle rendite, è fra il 10 e il 20%. La tassazione sui redditi, su quelli dichiarati, è alle punte massime sopra il 40-50%. Quindi se togliamo la tassazione dai patrimoni, anche immobiliari, anche dalle case, andremo per definizione ad aumentare ulteriormente la tassazione sui redditi, che non ci sono. Dove tassiamo molto di più i redditi di capitale e di lavoro delle rendite di posizione. Vabbè, è stato chiarissimo la sua posizione. Grazie Gianluca da Milano. Allora, prima del traffico, intanto saluto Eugenio Dorsi. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Presidente della provincia di Agrigento, abbia pazienza un minuto, ci sono le informazioni sul traffico, perché Enrico Letta è stato molto chiaro, è stato il, penso, nono Presidente del Consiglio che come prima cosa ha promesso aboliremo le province, e lei che fa? Lo spieghiamo tra un attimo. Eccoci, eccoci qua alle 8:47 minuti. Allora la sentiamo la voce, la via voce del Premier Enrico Letta sulle province. Scelte che in tempi certi cambino la Costituzione, riducano il numero dei parlamentari, aboliscano le province, creino un senato delle regioni. Aboliscano le province. Presidente Dorsi, presidente della provincia d'Agrigento, ma voi dovete politicamente morire tra poco, se non sbaglio, in Sicilia, no? No, morire no, non essere più. Io credo che comunque sia una catena. Lei mi deve dire perché quanto hanno costituito le province, perché li hanno fatte. Evidentemente ha sbagliato. Serviva questo ente intermedio anche per procacciare voti e per avere un riferimento politico negli enti locali, certo. Che non era soltanto il sindaco. Se oggi la moda è quella di dire aboliamo le province, io vorrei soltanto dire che incidono per l'1% di tutto il bilancio nazionale. Questo è vero, sì. Però Presidente, sono un bacino anche per poi dare posti, diciamo. Per esempio, ecco, lei è alzato. Posso soltanto fare un incidentale, sì. Perché i sottogoverni a cosa servono? Perché i sottosegretari a cosa servono? E beh, ma il governo che vogliamo... A cosa servono? E che vogliamo? Togliere il governo? No, togliere i sottogoverni, che non servono a nulla se non per collocare qualche trombato di turno. Ma guardi che se lei dice togliamo tutte le società partecipate o i trombati dalla politica a metterli nei consigli di amministrazione, qua sfonda una porta aperta, non è che... No, sono perfettamente d'accordo. Io questo nel 2008 l'ho fatto. Ho eliminato 10 compartecipate della provincia risparmiando circa 1,5 milioni di euro. Però ci deve spiegare questo. Perché, per esempio, a pochi giorni dalla comunque scomparsa, vedremo in Sicilia delle province, lei ha nominato due nuovi assessori di recente, no? Non sono nuovi, questa è nuovi. La solita discussione che nasce. Intanto ne ho nominato uno dello stesso partito. Che è quello di Fratelli d'Italia, poi le spiego perché. Me lo spieghi. Intanto, io non credo di non dovere e di non poter amministrare fino all'ultimo giorno. Sono stato eletto per farlo dal primo all'ultimo giorno. Ho capito, ma un assessore per un mese che vuole che faccia? Un assessore in un mese? No, ma lei deve andare a vedere il minimo. Io per amministrare ho bisogno di una giunta di 8 componenti. Se ne ho 7, non posso deliberare. Ma si vede che uno l'ha tolto o è per questioni politiche. No. Ma è vero che lei ha cambiato 50 assessori in 3 anni? Una barzelletta della quale i soloni del giornalismo Ne ha cambiati parecchi però. Ma no, assolutamente. Le faccio un esempio, mi scusi. All'inizio, nella campagna elettorale del 2008, si mettono degli assessori che sono dei deputati, per esempio l'onorevole Bosco, l'onorevole Gentile, l'onorevole Ciamprone. Questi cosa fanno? Prendono il posto di chi dovrà essere indicato, subito dopo, appena eleggono il presidente, fanno posto all'assessorato che il loro partito designerà. Loro cosa fanno? 5 erano deputati e 5 nuovi già diventano 10 assessori. Così si arriva benissimo a 50, che non sono poi 50 ma sono 35. Poi 35, ne ha cambiato 35, ma perché 35? Perché ci sono situazioni politiche che in Sicilia abbiamo vissuto, le faccio per esempio... Si cambiano coalizioni, si cambiano partiti, ma i cittadini, cioè si vedono 35 assessori passare sotto il naso alla provincia di Agrigento, per un ente che magari vorrebbero cancellare addirittura. No, ascolti, intanto la prego di considerare che i programmi programmi e gli obiettivi politici e anche quelli di programma sono di fatto dettati dalla coalizione. Ora, se l'assessore cambia, e poi perché non mi dite perché li ho cambiati io? Dice se cambia partito io devo cambiare, non fa più parte della coalizione di governo di provincia, devo cambiare assessore. Ma le dico di più, io non ho mandato via un assessore, i miei assessori si sono dimessi, le faccio l'ultimo esempio che è venuto, noi avevamo una giunta formata da MPA, il partito di Lombardo, con il PD, per l'anomalia che era successa qualche anno fa quando il PDL e l'MPA litigarono, ricorda che il Lombardo aveva... una maggioranza con il PDL, quella la perde. Insomma, cose politiche per cui al cittadino normale viene il mal di testa. Mi scusi, però c'è stato un assessore, presidente Dorsi, c'è stato un assessore che è stata in carica l'ultimo mese, 6 giorni, e dopo 6 giorni per motivi politici ha dovuto cambiarla. Bene, anche lì, quella entra come Fratelli d'Italia. Dopodiché l'onorevole Caputo se ne va da Fratelli d'Italia, sì. Lei aderisce al partito di Caputo che si chiama Libertà e Autonomia, mi pare. E lei ha dovuto cambiarla, la cambia. No, non l'ho cambiata, l'ho tolta. L'ha tolta, l'ha destituita, ma 6 giorni, ma voglio dire, ma che succede? Cambiate appena tutti entrano alla provincia di Agrigento, cambiano tutti i partiti. Scusi, dov'è lo spreco? Beh, mi dica dove lo spreco. Ma non è questione di spreco, ma intanto scusi, se uno fa un governo per governare una provincia, ogni 6 giorni, ogni mese cambia un assessore, ma no, come si governa? Dice lei ogni mese, la mia giunta, le mie giunte non sono state mai cambiate. Io ho avuto una coalizione per i primi 2 anni, dove per i primi 2 anni non ci sono toccati gli assessori, sì, tranne quelli deputati nominati. Poi la mia giunta ha avuto la necessità di farne una tecnica, perché dovevamo fare convivere le anime. Ce l'ha detto lei che son cambiate 35 persone, comunque sono passate lì. Sono 35 persone che hanno composto le giunte. Ecco, le chiedo, con 35 persone, come si fa a fare un governo serio che ogni 2 giorni cambia il programma, cambiano le persone? No, non cambia il programma, perché se cambiasse il programma io non avrei potuto togliere 130 milioni di euro di debiti, io non avrei potuto decurtare la spesa pubblica del 75%, io non avrei potuto ridurre i dirigenti da 27 a 13, però, io non avrei potuto tagliare... Ci sta dicendo tutto quello che ha fatto, però mi chiede, le devo chiedere questo, no, ma la reinvito, presidente. Quello che ho fatto non interessa a nessuno, ho un minuto e devo chiudere, prometto che la reinvito. È vero che le Iene hanno fatto un servizio di un'inchiesta che lei si sarebbe fatto piantare 40 palme comprate con le spese mi telefona domani, queste 150 palme diventeranno 200, dopodomani diventeranno 300, fino a quanto arriviamo ho sbagliato io, 40 palme, 40 palme, allora, 40 non palme. Sono 40, quante non sono 40, sì? Io ho sono? Tutte le carte in regola per dimostrare come sono arrivate le piante che parliamo di 1,70 euro ciascuno, ma questo non significa le ha pagate lei. Assolutamente le nulla, io posso dimostrare, lo dimostrerò nelle sedi opportune, che le ha pagate lei, che le ho, che sono state legittimamente va pagate. Va bene, la richiamerò, presidente Dorsi, intanto con lei la ringrazio e chiudo. Presidente della provincia d'Agrigento Letta, cancelleremo le province. A domani 24 mattino.